verso il nord Italia, dove si può trovare un posto di lavoro e l'università, concerti importanti, ragazze interessanti. L'estate è finita, ma ancora caldo fa, allora vado da solo, fino in fondo alla scogliera, mare bello pulito, ma le voci dicono, non era meglio prima, quando ero qui con la comitiva. Paradiso, perché non basta il paradiso, perché non basta il paradiso. L'estate è finita, ma ancora dentro me c'è voglia di restare.